passando qua, significa veramente molto per me. E stiamo qua per parlare del mio libro, che è stato pubblicato 2 settimane fa, dopo un anno di lavoro, un anno veramente lungo, però anche molto divertente. E niente, questo è il libro, si chiama Talking Feelings, è in inglese, è per bambini, però in realtà, avendolo letto anche con delle persone adulte, essendomi confrontata con varie colleghe psicologhe o comunque persone con cui lavoro, secondo me ci sono delle tematiche importanti anche per gli adulti. E quindi questo è il libro. Ok, all'inizio vorrei parlare un attimino di quello che faccio, perché ci sono tante persone che o mi conoscono solo come amica o non conosco proprio. Allora, io mi chiamo Cristina e negli ultimi 4-5 anni ho sviluppato questo metodo che si chiama CRIEDU ed è specializzato in 2 cose. La prima sono dei programmi educativi individuali. Si lavora più che altro sulle lingue, sull'inglese e lo spagnolo. E poi l'altra parte è il counseling, dove lavoro, non sono psicologa, sono counselor, lavoro con delle famiglie con varie problematiche emotive o comunque di dinamiche che vorrebbero migliorare, e lavorando più che altro sull'intelligenza emotiva, sull'espressione, sulla comunicazione, che sono le cose di cui sono più appassionata. Quindi questo è il CRIEDU, una fotopropaganda, e niente, siamo prossimo. Allora, l'idea per il libro. Il libro in realtà mi è venuto in mente dopo il Covid, perché durante il Covid ho fatto questo corso molto molto carino sull'illustrazione per i bambini, illustrazione a mano, e su questa piattaforma che si chiama Domestika, e sono quasi tutti i corsi in spagnolo. Camilla looking at you again. E molto molto carini, artistici, ma anche di graphic design, di marketing, cose diverse. E ho fatto questo corso che appunto si focalizzava su un approccio nuovo, un approccio diverso per l'illustrazione per i bambini, che io non avevo mai trattato prima, ero un artista, ma l'illustrazione per bambini non sapevo niente. E questo è in realtà un'illustrazione che ho fatto per il Piccolo Principe, che sicuramente avete tutti presente, e la parte dove il Piccolo Principe muore, sorry for the spoiler, e dove muore, e praticamente il pilota, ogni volta che guarda il cielo stellato, sente questo suono delle campanelle, si chiamano the bells, che ridono. E quindi da una prospettiva, cioè non è semplicemente la figura, però da una prospettiva un po' diversa guardandosi in su. Poi c'è un altro dove il serpente lo morde, il Piccolo Principe, e appunto anche qua c'è l'idea della la composition un attimino più originale del solito. Quindi questo corso è stato molto utile. E dopo che l'ho finito, ovviamente facendo le illustrazioni su una storia già esistente, ho pensato, mi piacerebbe un sacco fare una cosa, diciamo, un po' connected alle cose con cui lavoro, quindi le emozioni e i bambini. E quindi sono andata alla Feltrinelli e ho guardato i libri. Questo è un libro bellissimo di Beatrice Alemagna, perché appunto non sapendo niente dei libri per i bambini sono andata a farmi un po' di ricerche, e questo libro mi ha colpito fin da subito. Mi ha colpito fin da subito, sia per la copertina che per le cose che passano, già una cosa parlando della natura effimera, della vita, delle cose. È un concetto abbastanza importante, secondo me, è un concetto difficile da spiegare ad un bambino di 3 o 4 anni, ad esempio. E quindi questa autrice Alemagna è stata molto importante per me, ho preso un sacco di spunti da lei. Poi dopo invece c'è stato Pascal Campion, che forse abbiamo anche fatto qualcosa con Linda, non mi ricordo, l'anno scorso, 2 anni fa, e, non mi ricordo, quando facevamo i posters, che è un artista particolare che fa delle cose semplici, concetti molto semplici, però utilizzando la luce in un modo fighissimo. Cioè con la luce riesce a esprimere un'atmosfera, riesce a dare un'idea di qualcosa che è veramente per me affascinantissimo, non so neanche come dirlo. Infatti qua, cioè, io riesco ad immaginarmi in quella ragazza, il novembre sera, che sono davanti a una finestra prendendo quel poco del caldo che è ancora rimasto, del calore, dal sole. Quindi questo è stato un altro inspiration per me. E poi dopo ho iniziato, ho preso una tavoletta grafica su Amazon, e quella, una di quelle più economiche in realtà, perché non sapevo appunto se avrebbe avuto, cioè se avrei fatto qualcosa poi alla fine. E questa è stata una delle prime illustrazioni che ho fatto, che in realtà può sembrare figa, però non è assolutamente neanche vicino a quello che avevo in testa, perché direi che è un optical illusion più che altro il fatto che com'è. E lì ho capito che non avevo ancora abbastanza skills per poter fare, per poter scrivere ed illustrare un libro, e quindi sono tornata appunto a capo, praticamente a Domestika, quella piattaforma che dicevo prima, dove ci sono questi corsi, e ho fatto un altro corso. Questa volta era un corso in Photoshop sulle illustrazioni grafiche. E questa è l'illustrazione finale che ho fatto su una storia non mia, di questo ragazzo che va a spiare praticamente le ragazze che si fanno il bagno. E una cosa molto interessante, per quello che ho scelto questa scena. E mi ha dato le competenze tecniche di layers, di come utilizzare le varie funzionalità in Photoshop per appunto poter fare le illustrazioni come mi immaginavo, per poter lavorare un po' anche sulla luce come volevo. E quindi questo era il corso. E poi dopo ho iniziato a scrivere. È un po' strano scrivere, perché io sono abituata a fare le evaluation, non sono abituata a scrivere. Lavorando tanto con i ragazzi sulla lingua, sul creative writing, sulla letteratura, non è una cosa per cui ho tempo, e quindi mi sono sentita una studentessa ai tempi di liceo che faceva i creative writing, e quindi ho iniziato la scrittura. Per la scrittura ci ho messo circa 10% del tempo, e gli altri 90% erano le illustrazioni, che non mi aspettavo di doverci mettere così tanto tempo, ma in realtà è stato veramente veramente lunga. E ho cercato di fare un po' l'insegnante, avendo scritto una pagina per ogni pagina, ho fatto i commenti come se il lavoro fosse scritto da un mio studente, quindi un'analisi molto critica, costruttiva. E quindi ho fatto questa cosa, e poi mi sono confrontata anche con una mia carissima amica che si chiama Ivana, ed è una ragazza che ha fatto la scuola a Londra con me, bravissima a scrivere, e quindi lei mi ha fatto un po' da editor, possiamo dire, cioè mi ha dato qualche spunto per migliorare la parte scritta. E poi dopo però sono tornata al disegno, e ho capito che non avevo ancora un mio stile, un qualcosa che mi rappresentasse. Cioè sapevo disegnare una faccina, ma non sapevo bene come catturare un momento, un'atmosfera. E quindi sono tornata anche qua al libro iniziale di Beatrice Alemagna, quella che dicevo prima, Le cose che passano, e ho preso un suo disegno. E ho fatto una mia interpretazione di quel disegno, sempre versione schizzo, molto veloce, però cercando di capire un attimino la composizione e anche il contenuto. Quindi questo è stata la prima di fare qualsiasi capitolo, qualsiasi illustrazione vera mia, sono andata a copiare e a cercare di trovare un mio stile. Quindi questo. E poi dopo ho iniziato a fare le mie illustrazioni, che come vedete all'inizio fanno veramente schifo. Questo doveva essere la copertina all'inizio, e Looking Through doveva essere il nome del libro, che alla fine non c'entra niente col nome finale che ho scelto, però appunto era questo: andare su Photoshop, cercare di fare qualche schizzo, capire dove mettere il testo, come fare la composizione, e poi andando lì coi colori. E questa era la prima illustrazione vera e propria del primo capitolo, che parla della solitudine, che poi dopo vi leggerò. E quando l'ho finita mi sentivo molto delusa, infatti non so se Raul si ricorda, ma praticamente volevo smettere. Ho voluto smettere almeno 5 volte durante il processo della scrittura, perché non era quello che mi immaginavo, non era quello che volevo, ero molto critica con me stessa e questa illustrazione non mi piaceva per niente, però era il meglio che riuscivo a fare in quel momento. E se non fosse stato per Raul non avrei continuato e non ci sarebbe stato poi la versione finale del libro. Quindi ecco questo. E poi invece non ho rinunciato all'idea di finalizzare il testo, ce l'avevo già, ma proprio di fare il libro, di metterlo insieme. E ho usato InDesign, Adobe InDesign, che ho pirattato, perché appunto anche qua non sapevo se l'avrei finito, no? Quindi nel senso, cioè, e quindi ho iniziato a fare le pagine, l'impaginazione di tutto quanto, e poi lì ho capito che in realtà andava anche bene, che potevo finirlo senza nessuna aspettativa, ma almeno finirlo per me come progetto personale. Poi dopo ho deciso di pubblicarlo. L'idea di pubblicazione in realtà c'è stata fin da subito, perché un mio carissimo amico Lorenzo aveva scritto un libro 2 o 3 anni fa e mi ha dato un sacco di spunti, un sacco di consigli per come pubblicare. Lui ha pubblicato e mi aveva consigliato You Can Print, che in realtà è una casa editrice molto figa online italiana, e io pensavo di pubblicare con loro. Solo che quando ho messo il final draft, quindi quello proprio prima di dover stampare, c'era sempre questo error che non accettava il documento, non accettava il file. Ho scritto al customer service e mi hanno detto che il libro doveva essere almeno 50 pagine. Io non so se avete mai avuto a che fare con i bambini, però un bambino di 5-6 anni, 50 pagine, cioè, non esiste. E poi lo standard internazionale che mi sono andata a fare nei primi momenti alla ricerca sono 32 pagine per un libro illustrato che si chiama Picture Book. E quindi non esiste, cioè 50 pagine dopo tutto quello che ho fatto, tutti gli sbatti di non vanno bene le illustrazioni, non va bene l'impaginazione, e aggiungere praticamente il doppio, perché il libro ha 32 pagine, aggiungere il doppio quasi mi sembrava un'idea fuori di testa. E quindi quello non l'ho fatto, però non mi sono lasciata scoraggiare. Dopo un piccolo momento di crisi ho trovato quest'altra modalità, che è Amazon Direct Publishing, che in realtà mi conviene molto di più, perché intanto si vende tutto su Amazon e non devo gestire io le consegne. Quindi se qualcuno vuole scrivere un libro, vuole pubblicarlo e averlo proprio, cioè, con il codice ISBN, è una cosa molto, molto carina, perché non devi stare dietro appunto alle consegne, fanno tutto loro. Quindi alla fine ho pubblicato con loro e niente, il libro adesso è proprio in forma fisica qua con me, e possiamo andare avanti. Ok, e poi la parte funding, in realtà io non ho ricevuto nessun tipo di aiuto, di compensazione per economica, dico proprio di finance, da nessuno, perché sono amateur, era il primo libro che ho scritto. Però so che ci sono un sacco di fondi europei, un sacco di iniziative, di applicazioni, di concorsi che si possono fare. Questo è un esempio in Slovacchia. Ad esempio adesso per un secondo libro, se mai dovessi scriverlo, posso fare questa application per ricevere un aiuto economico appunto per farlo. Quindi questa è un'altra cosa molto carina. Avendo fatto la prima cosa, il primo progetto, c'è poi la possibilità di fare cose più, diciamo, con più aiuto, ecco, perché ci si mette veramente tanto tempo. E questo era il funding. E le cose che avrei fatto diversamente, sicuramente me lo sarei goduta di più tutto il processo fin da subito, che è una cosa su cui devo lavorare in generale nella mia vita, sul godermi le cose, sul rilassarmi e non essere così rigida. E sì, sicuramente avrei fatto più ricerca all'inizio, più ricerca nel senso, non è che io non abbia fatto la ricerca, però anche lì il godermi la ricerca, andare nelle librerie e passarci anche tutto un weekend, per dire, hai solo un sabato, perché la domenica devi già finire il primo draft, perché se non lo finisci poi per settimana prossima non ci saranno tutte le altre deadline. Quindi mi avrei preso più tempo per per godermi gli altri lavori degli altri autori e per, appunto, per fare un po' di ricerche che poi mi avrebbero dato sicuramente anche più idee. E, avrei fatto più prove, quindi anche qua la questione del tempo, che io avevo un deadline molto molto precisa, perché con la mia routine è molto difficile inserire un progetto senza poi avere delle deadlines, e quindi ho avuto un mese per fare le prove. Dopo quel mese, cioè, nella mia testa, dovevo iniziare col primo capitolo, e se potessi tornare nel tempo non avrei più fatto così. Organization, che forse sembra un po' strano dopo quello che ho appena detto, ma se guardate il libro, i capitoli in realtà sono, parlano di questi due ragazzi che si chiamano Tommy e Emily, e non sono ci sono varie stagioni dell'anno, e io alla fine ho deciso di mettere un capitolo con Tommy, un capitolo con Emily, un capitolo con Tommy, un capitolo con Emily, però le stagioni non hanno senso in questo modo, perché non ci avevo pensato semplicemente all'inizio che l'inverno va dopo l'autunno, non dopo l'estate, e quindi mi sarei progettata, avrei fatto meglio a organizzarmi un attimino le idee, l'ordine dei capitoli. E l'ultima cosa, che per me non è stata una priorità perché non ho mai voluto fare soldi su questo libro, sempre fin da subito ho voluto togliermi questa pressione, avrei fatto però più marketing, non per l'aspetto economico, ma per avere più visibilità e poterlo condividere di più, perché utilizzandolo adesso anche nel mio lavoro con ragazzi di solito intorno ai 8 anni, vedo che funziona e mi porta un sacco di gioia questa cosa. E quindi se avessi fatto più marketing, più, non so, qualche collaborazione con qualcuno, se l'avessi presentato prima, non lo so, forse sarebbe stato meglio. Però, appunto, come dicevo, con la mia routine è molto difficile fare queste cose. Quindi in realtà sono contenta di come è venuto e di quello che è il prodotto finale, diciamo. Quindi niente, basta. Grazie. Se avete qualche domanda, a posto, tutto chiaro. Joe, do you have any questions? Yes. Ok, let's do the reading, sure. Yes. Facciamo solo 2 capitoli, quindi, e sono piccoli, tranquilli. Yes. Questa parte però sarà in inglese perché proprio, cioè, non riesco a fare la traduzione così velocemente. Okay, so this is the first chapter and it's welcome. Where is water born? Wondered Tommy as he noticed tiny droplets outside of his window. He could feel the cold of the wooden floor even through his sweatpants. As he watched closely, those little drops fell faster and faster until they became almost like a shower. "Hi, Tommy, how are you?" asked one droplet, which had just landed right in front of his window. "Oh, well, hello. I don't really know how I am. I am alone and everybody's busy." "I see," muttered the rain thoughtfully. "I think I have seen this feeling in other humans before. Let's see. Do you feel a little weight right inside your heart?" "Yes," said Tommy sadly. "And do you feel unhappy that there is nobody around you to play with?" "Yes," Tommy exclaimed. He sure wished he wasn't alone right now. "Well, dear Tommy, I think I have understood." "Understood what? What?" Tommy was very eager to find out. "You are feeling lonely, Tommy." Tommy thought about it. He was glad that the rain helped him understand. "Well, thank you, rain, but Do you happen to know what I could do to feel better? Oh, dear, tell me. Firstly, you have to accept it. Accept? What does that mean? Tommy asked, confused. Well, you welcome the loneliness into your heart. You say hello, as you would say to your dog Ruffy. But I love Ruffy. I don't like this feeling. That is exactly what acceptance is. Saying hello even to the things you don't like. Trust me, when you welcome this feeling into your heart, it won't be so bad anymore. It might even become your friend. Tommy liked the idea of having a new friend. All right then, I guess I can try, Tommy sighed. And after? I'll tell you what. After you do that, I will go away and there will be a rainbow in your garden. How about you take a ball and come to play? This sounded really good to Tommy because he loved playing with his ball. And that's the end of the first chapter. And then... yeah, perfect. One. Yeah. Okay, and this one is called The Biggest Gift, and it talks about what you should do when you don't get what you want, and maybe what you expect. Christmas was usually Emily's favorite time of the year. She loved dressing up as an elf on Christmas Eve and opening the presents with Daddy and Papa. This year, she was super excited because it was her baby brother Andy's first Christmas as well. But after she opened all her presents, she became quite upset. She got the experiment set, but she didn't get the new hoodie that she wanted so much. She left the house as soon as everybody else opened their presents. This was probably the worst Christmas ever. "Hey, Em, what's going on?" asked a snowflake on her terrace. "You won't believe it, Snow. I didn't get the hoodie I wanted. I was really looking forward to it, but I only got the experiment set." "Oh, yes, I'm sorry. Emma, why don't we go for a little walk? I'm sure some air would do you good." Emily didn't want to get back into the house just yet, so she followed the snowflake around the streets in the neighborhood. When they turned around at Yellow Lane, Emily saw in through the window of one house. "Snow! Why are there only potatoes at this family's dinner table?" Emily asked, surprised. "Well, Emily, there are families that do not have any money for food, let alone many presents. Have a look at this other house here." Emily turned her gaze to another house down the street and saw that there were six beds crammed in one small room. "This family has just moved into town. They are all sleeping in the same room. None of the kids have their own desk or a wardrobe. They all do their homework on the floor, but spend most of their day outside because there is no space in the house." "But why don't they buy a bigger house?" asked Emily. "Not all the people are lucky enough to choose, Em. I know you are upset about not getting your hoodie, and there is nothing wrong about that, but try to think about all the choices you can make every day." "Like what?" asked Emily. "Well, you already have 5 hoodies you can choose from every morning when you go to school. Daddy and Papa ask you what you'd like for dinner every day. You can choose to have a sleepover at a friend's house whenever you want. These families here don't have those choices at all." They started heading back home. As they walked, Emily realized that the biggest gift she receives, not just on Christmas, but every day, is choice. That's it. Thank you. Grazie. Ok. Ci sentiamo. Super. Complimenti, grazie per essere qui questa sera. Farei un altro applauso anche caloroso che si è meritato. Grazie. E mi sono preparato qualche domanda. Io ho avuto la possibilità di sbirciare il libro. Ti avrei chiesto cosa fai ora e qual è stato il tuo percorso. E mi sembra che con Criedu tu ci abbia dato un po' un primo sguardo, se vuoi approfondire. cosa faccio? Cosa fai nella vita? Qual è il tuo percorso? Okay. Come, cos'è Criedo un po' più nel dettaglio? Come ti comporti quando lavori? Cosa fai quando lavori? Perfetto. Allora, Criedo è un approccio che a me piace chiamare olistico, non perché sia una cosa esoterica, spirituale, strana, ma semplicemente perché cerco di considerare una persona come un insieme di cose, un insieme di fattori. Tu non sei solo un studente, non sei solo una ragazza adolescenziale, sei una persona che ha avuto un percorso profondo, come tutti noi in realtà. E quindi mi piace considerare questa profondità delle persone quando lavoro con loro e quando cerco di fare qualcosa, di arrivare a qualche obiettivo. Essendo una persona, diciamo, quasi inglese, mi piace essere organizzata ed avere questi obiettivi. Però mi piace anche capire che se quel giorno lì ti sei lasciata col tuo ragazzo, se quel giorno lì qualcuno ti ha preso in giro, forse non è proprio il caso di parlare di Hemingway o Fitzgerald, ma forse è il caso di parlare semplicemente di come ti senti e cosa è successo. Quindi più o meno questo. Insegnante attenta, insomma. Beh, speriamo. No, cerco di esserlo, cerco di esserci più che altro, cerco di esserci. E non mi piace l'idea dell'autorità, che io sono l'insegnante, quindi io adesso ti do qualcosa, tu ricevi e basta. A me piace considerare il processo come una condivisione, come una cosa che stiamo creando insieme, non sono io che ti sto dando. Cioè, anche tu stai dando a me almeno quanto io stia dando a te. Quindi è più o meno questo. Super. Non so se l'hai detto, non credo, ma da cosa è nato l'istinto, la voglia di scrivere un libro e perché da cosa è nato? È nato perché è nato perché mi sono sentita ispirata da questo corso che ho fatto, ma il vero motivo dietro tutto quanto è semplicemente che penso che ci sono certi argomenti che sono molto difficili da accettare anche per noi adulti, da spiegare. Come fai a dire a qualcuno che non lo ami? Come fai ad accettare la morte di una persona che amavi? E sono cose molto difficili, anche qui molto profonde, che facciamo fatica anche noi, sicuramente io nella mia vita personale, ad elaborare. E quindi creare questa guida per i genitori che forse possa farli avvicinare ai loro figli mentre leggono qualche capitolo insieme la sera è stato quello, diciamo, lo scopo, ecco, del libro. Nel libro si impara insieme a affrontare le emozioni, insomma, a parlare delle emozioni. Esatto, situazioni difficili che creano emozioni difficili. Sì. Ok. Quindi dici è nato dal corso, diciamo, il corso di illustrazione. Esatto. E passando da questo al processo creativo di cui hai parlato, come si è sviluppato? A partire da come è nato? È stato prima un disegno e poi un raccontare il disegno o viceversa? O è sempre stato un po' entrambi? No, è sempre stato prima il testo, quindi prima l'idea di quello che volevo esprimere, appunto perché essendo una cosa così, così complessa, essendo un'emozione così difficile da accettare, è stato prima il testo che poi doveva essere decorato, diciamo, con le illustrazioni. Però il testo, il messaggio di ogni capitolo è stato il punto di partenza. Beh, complimenti allora per i disegni. Grazie. Che rispecchiano molto bene il testo, secondo me. E, appunto, dicevo prima che avevo potuto dare una sbirciata al libro, nell'introduzione scrivi del bambino che è in te, o che è in noi, insomma. Che cos'è il bambino che è in noi? Bella domanda. Il bambino che è in noi, direi che è la parte di noi che vive le cose, la parte di noi che è felice, che prova varie emozioni, che è triste. E il bambino è la parte non razionale, non adulta, che non deve fare la spesa, non deve lavare i vestiti, ma è la parte in noi che ci fa sentire, che ci fa vivere il mondo. Quindi direi questo. Ok. E per quanto riguarda invece le cose su cui migliorare, di cui hai scritto, hai parlato, in particolare mi ha colpito l'enjoyment, quindi il godersela nel farlo, il piacere, e le deadline. queste due affiancate a inizio e fine della slide mi hanno colpito. Le deadline erano autoimposte. Sì. Ok. Sì, assolutamente. Molto nel breve termine. È stata un po' una sfida che ti sei posta. Sì, perché praticamente tutto quello che faccio è così. Quindi non è stato un progetto lavorativo che adesso devo finire entro tot, è semplicemente stato ok, come inserisco questa cosa nella mia quotidianità? La inserisco così che venerdì tra questo e questo faccio il disegno. Quindi stai già scrivendo anche il prossimo? Per il momento no, ho già qualche idea, però non ho ancora cominciato. Ok. Gioie nella realizzazione? Perché hai parlato dei punti di vista da migliorare, invece immagino ti sia piaciuto farlo e credo che tu abbia completato la sfida che ti sei autoimposta. Ultima domanda, direi, la lingua inglese. Come mai l'hai scelta o come mai non hai scelto le altre? Perché l'inglese è la lingua in cui lavoro. Quindi comunque vivendo in Italia e lavorando con tutte famiglie italiane è sempre in inglese, sia la parte di education che la parte di counseling, o in inglese o in spagnolo, però la maggior parte è in inglese. Ed è la lingua, è la mia lingua, è la lingua a cui sono più affezionata, che mi esprime di più e con cui riesco ad esprimermi nel miglior modo. Perfetto. Traduzione, prima o poi? Pensato? Pensato, vediamo, vediamo, iniziamo con questa che mi sembra che è quella più, versatile e poi vediamo. Super, grazie mille. Grazie, grazie mille, grazie a tutti ancora.